Bentornati quindi a Boca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione nell'universo che parla di espansione del capitalismo nello spazio. Lo facciamo ogni giovedì in diretta e quindi eccoci, accanto a me Bimo, ciao. Bimo, e poi il nostro Remax, a cui ho mutato il microfono, quindi non può dire nulla. Va bene, ma detto ciò, insomma, ci siamo e quindi la nostra sigla. Non ci stancheremo mai di dire che se siete curiosi di sapere quale sarà il futuro del capitalismo, beh, siete all'ascolto della trasmissione. Che ve lo giusta. Dirà? Giusta, sì, beh, quantomeno. O ve l'ha già detto anche. Poi. Fa un po' di speculazione su tutto ciò, insomma. Benissimo, bentornati, questa è la nona puntata. No, scusa, veramente, se ancora non lo sapete e avete ascoltato la trasmissione, c'è qualcosa che non va, però. Vabbè, però non bisogna dare per scontato che tutti abbiano sentito tutte le loro trasmissioni. Infatti quello che volevo dire è che soprattutto la cosa più propedeutica da fare è quella di andarsi a risentire, per i più volenterosi, quelle che sono le puntate della prima stagione, che trovate sul sito di Forte Prenestino, fortepenestino.net, nella slot Radio Forte, nella slot Boca Chica Cosmodrome. Tutte le puntate finora andate in onda, anche quelle più recenti, anche l'ottava, la settima della seconda stagione, che hanno un'impronta un po' diversa dalla prima, vero Bimo? Sì, sono più leggere, dai. Sono più leggere, un più un caffè, insomma, e quindi vi allieteremo in questo senso con un po' di novità di capitalismo spaziale. Vi ricordiamo... Ah, una cosa, se potrete provare ad aver ascoltato tutta la prima stagione, tutta, avrete un adesivo in regalo. Va bene, questa cosa non regge più, ma tu continui a ripeterla, ma va bene, però diciamo che... No, veramente questa è la stagione della prima volta, adesso noi cerchiamo di dare via questi adesivi in tutti i modi, però niente, non è nessuno di voi. Tutto ciò introduce al fatto che noi abbiamo un canale Telegram, anche se è poco popolato, che tra l'altro è molto ben vigilato dal nostro Remax. Ciao Ray. Ciao Gobbo. E prestissimo troverete anche questa puntata qui, lo streaming di questa puntata verso lunedì, così sì, verso lunedì generalmente. E il nostro canale Telegram è molto facile da raggiungere perché è Boca Chica Cosmodrome. Esatto. Allora, dicevamo, novità rispetto alla prima stagione, ma una costante in tutte le puntate, un brano, un estratto, 45 giri da un'enciclopedia Fabbri del 65-72 se non sbaglio, e in cui vengono riportati tutta una serie di documenti spaziali dell'epoca che noi abbiamo digitalizzato con il nostro i nostri potenti mezzi, esatto, al Forte Prenestino, il nostro piatto, e che vi proponiamo in ogni puntata un po' decontestualizzati, anche un po' fuori contesto, però molto belli per le voci e per gli argomenti. Questo è particolarmente bello, non so se tu l'hai sentito, Bim, ma ti piacerà. Ho iniziato a sentirlo per vedere che fosse veramente lui, ma lo sentirò per la prima volta adesso. È molto molto bello. È bello, ma poi ne parliamo, va bene, hai ragione, scusa, ma hai segato, vabbè. I pompieri in Francia arrivano così. Questo è presso poco il suono della loro sirena. Presso poco perché in realtà si tratta di uno dei più curiosi segnali inviati da un satellite. Ascoltate. Pochi uomini al mondo, all'infuori di una ristretta cerchia di scienziati, conoscono la voce del TRAAC, il satellite americano lanciato da Cape Canaveral il 16 novembre 1961. È stato registrato dall'osservatorio di Bochum pochi giorni dopo il lancio. Il track non era solo nello spazio, volava con il Transit 4B. Erano partiti insieme agganciati a un gigantesco vettore Torrable Star. Una volta in orbita, ognuno aveva preso la sua strada. Al video si erano salutati con due allegri colpi di clacson. Infatti anche la voce del Transit 4B che state ascoltando assomiglia a quella di un vecchio clacson. Proviamo ora a sovrapporre i due segnali. L'illusione è perfetta, manca il fischietto del vigile e sembra di essere in una strada del centro. Anche per lo spazio, il 1961 è stato un anno di traffico intenso. ...350 milioni di aghi di rame, un immenso anello, fascia improvvisamente la Terra. Il diametro degli aghi è pari alla sezione di un capello. È la straordinaria nube dell'esperimento Westford che gli americani giustificano come imponente premessa al futuro delle comunicazioni. L'esperimento Westford diventa rapidamente il caso Westford. Bernard Lovell, direttore del radiotelescopio di Jodrell Bank, protesta parlando di un atto di contaminazione extraterrestre. Altri astronomi ritengono antiscientifica questa semina di aghi nell'atmosfera. Anche i sovietici naturalmente protestano. Sentirete ora il commento che lo scienziato sovietico Blagorav fa a Ginevra a proposito del Westford. Несомненно, что американский эксперимент по проекту Westford с точки зрения ученых представляет интерес. There is no doubt that the recent American Westford experiment, in the opinion of scientists, is of considerable interest. Fin dalle prime parole del traduttore appare chiaro l'atteggiamento sovietico. On the part of radio astronomers, who are worried that this experiment might harm their experiments. Senza dubbio, le ragioni per cui fu realizzato il progetto Westford, dice Blagorav, sono a parere degli scienziati notevolmente interessanti. Tuttavia, allo stesso tempo, è noto che questo progetto ha provocato preoccupazioni, per esempio ai radioastronomi, i quali temono che questo esperimento possa danneggiare i loro lavori. La serie dei Discoverer, le capsule sperimentali in vista del volo umano, continuano a deludere gli americani. Anche la sonda Ranger, lanciata il 18 novembre, non ha miglior fortuna. È a questo punto che Willie Lay, forse il più grande esperto di problemi spaziali d'America, intervista per telefono il maggiore generale Donald Yates, comandante del più grande centro di collaudo missili che posseggano gli Stati Uniti. Ah, così, di botto è finito. Così, ci aspettavamo sì, che in realtà ci fosse un'escalation. No, ma anche l'esperto che rispondeva. Allora, esatto, l'esperto di problemi spaziali, sì. Il più grande esperto, perché ce ne sono anche tanti degli altri. Esattamente, no, vabbè, forse era sul disco B, perché in realtà può darsi. Il 45 giri ha un lato A e un lato B. Vabbè, sì. Allora, detto ciò, siete sempre... Però un attimo, c'è anche la sovrapposizione dei segnali dei due satelliti, che è fantastico. Quello abbiamo fatto per sentire. È arte pura. Abbiamo fatto sentire per quello, credo che sia il primissimo pezzo di musica spaziale mai realizzato e prodotto da Anima Viva, da questo nostro Enzo Tortora, si suppone sia sarà il cugino, chissà. Allora, se ve lo state... Mario Tortora, chissà. Se ve lo state chiedendo, siamo in diretta dal CSO a Forte Prenestino di Roma con Boca Chica Cosmodrome. Oggi è giovedì sera e tutti i giovedì siamo in diretta con questa trasmissione che parla di espansione del capitalismo nello spazio. Bando ai preamboli, siamo andati un po' lunghi. Bimo, tu hai qualcosa di interessantissimo? No, non è interessantissimo. Adesso, oggi veramente non sono particolarmente fiero di quello che vi proporrò, perché... Vabbè, un aspetto tecnico, però non poco rilevante. Diciamo più che tecnico è un cambiamento di atteggiamento nell'ESA, che già questo parliamo, praticamente i più avranno cambiato canale, però, e sulla gestione dei, dei fondi alla fine che l'ESA gestisce. Allora, il caso di esame è un'iniziativa che si chiama Europe's Space Cargo Return Service, cioè praticamente dei veicoli spaziali che dovrebbero essere in grado di trasportare un carico dalla Terra a una destinazione spaziale, quindi per esempio una delle stazioni spaziali commerciali che si suppone verranno costruite prima che la stazione internazionale venga distrutta, di cui abbiamo parlato tra l'altro nelle puntate precedenti. Esatto. E si è in grado anche di riportare sulla Terra un carico dalla stazione. E negli Stati Uniti dei veicoli del genere ci sono già, in Europa no, non c'è niente del genere. La grande novità è che per costruire questo servizio è stata fatta una gara che ricalca un pochino nelle modalità un programma della NASA del 2006, il Commercial Orbital Transportation Services, che ha poi nel tempo determinato la nascita di due veicoli spaziali, il Dragon iniziale SpaceX e il Cygnus, che vengono attualmente utilizzati per trasportare avanti e indietro persone e no, materiali non in generale, perché poi le persone sono arrivate dopo con un'evoluzione del Dragon, il Crew Dragon che viene usato attualmente. E quindi un programma della NASA che ha avuto un grande successo, nel senso che ha in un'ottica di capitalismo spaziale determinato la nascita di aziende private, le quali forniscono dei servizi alla NASA e poi fanno anche altro. Nel caso di SpaceX fanno anche molto altro. Il modello dell'ESA era completamente diverso, cioè molto semplicemente l'ESA riceve fondi da paesi donatori europei, ovviamente, e l'accordo è che poi questi paesi donatori ricevano proporzionalmente delle commesse dall'ESA per costruire appunto ciò di cui l'ESA ha bisogno. Questo ha fatto sì che negli anni i progetti ESA diventassero molto inefficienti. Bisogna sempre trovare, per esempio, che ne so, cosa facciamo fare ai belgi in questo progetto, e bisogna in qualche modo ricavare uno spazio per delle aziende belghe, perché il Belgio ha contribuito all'ESA. E questo non è particolarmente efficiente, però diciamo ha una sua giustizia di fondo, no? Che dici, Cobol? Sì, ai belgi possiamo fare le patatine. Non, sì, magari. Nessuno di solito fa quello che sa fare meglio in queste situazioni. Questo è quindi tu parli sostanzialmente di una nasizzazione, esatto, dell'ESA. E che io direi che tra l'altro va a braccetto con una americanizzazione del sud, tutta l'Europa, che si caratterizza sempre più per governi autoritari che non fanno altro che fare la sentinella a quelle che sono le multinazionali che governano ormai praticamente sul territorio europeo. Quindi voglio dire, da un certo punto di vista c'è anche un coordinamento da questo punto. Diciamo che qui secondo me il tentativo è di crearle queste multinazionali. Che, ma quelle già ci sono, sono multinazionali transnazionali. Nello spazio non ci sono degli attori europei paragonabili a quelli cinesi, americani o anche russi, non ci sono. No, però l'Europa potrebbe diventare un altro punto di accesso allo spazio per quelle già esistenti. SpaceX e Blue Origin solo alcune, sono solo la punta dell'iceberg di quello che poi tutto, come abbiamo spesso raccontato. Ma il tentativo qui penso sia proprio evitare che succeda una cosa del genere, cioè il cercare di utilizzare un modello che ha avuto un certo successo, viste le finalità che aveva, e vedere se funziona anche in Italia, sperando in Europa, sperando che delle aziende europee arrivino alle dimensioni e alle ambizioni delle loro controparti americane. Nel caso particolare, tra l'altro, la prima selezione di aziende che appunto cercheranno di costruire questo servizio ha selezionato un'azienda italo-francese, l'Alenia, Thales Alenia Spazio, e un'azienda che è un attore storico dello spazio mondiale, nel senso che l'Alenia ha costruito parti dell'ISS, per dire. E invece un'azienda molto invece nuova, fondata nel 2021, un'azienda tedesca che si chiama The Exploration Company, un nome tedesco per antonomasia proprio, e che hanno ricevuto ognuna 25 milioni di euro per iniziare a lavorare sul progetto. Allora, questa nasizzazione dell'ESA, tra l'altro, parte con il piede sbagliato, secondo me, anche per il fatto che abbiamo raccontato spesso che ormai la più grande agenzia spaziale al mondo in realtà è il Pentagono, quindi ci stiamo ispirando, l'ESA si sta ispirando neanche alla più grande, ma alla seconda in classifica. Ma questo, insomma, non interessa fino a un certo punto, perché quando... Io penso sia più il meccanismo che il tentativo. Quando le grandi aziende come SpaceX sono approdate negli Stati Uniti, però lì hanno trovato la NASA, non hanno trovato l'ESA. E loro cercano di fare la NASA, infatti. Esattamente. Adesso, va bene, tu avevi altro? Io in realtà più o meno sostanzialmente questo. Allora, io sai cosa farei? Perché siamo molto in tema, lancerei quello che in gergo, lo faccio un po' lungo per darti il tempo, si chiama Primo Brano. Thank you. Ebbene sì, mi stanno raggiungendo tantissimi complimenti per il pezzo che ho scelto. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, io conosco una band contemporanea che ovviamente non lo offendiamo. No, ma se è la band che pensa anch'io, sono onorati, ovviamente. Certo, sì, beh, devono essere. Allora, qui ci sono delle perle veramente incredibili. Allora, si trattava di Patrizia Pellegrino, 1982, una showgirl, una soubrette di quegli anni, che si impegna in questo brano, secondo me molto molto bello. Bellissimo, il testo è incredibile. Il testo è incredibile, a me ricorda molto, tra l'altro, come dire, echi di Didi Jackson, Meteor Man, che però del 78. Sì, ma meglio questo. Secondo me è meglio questo. Non lo so, a me Meteor Man piaceva molto, molto. Scusa, vabbè. Cito, siderale, spaziale, bionda, naturale, cosmica e cordiale. Didi sì, Jackson. Cioè, scrivetelo voi una cosa così, esatto. Io non sono in grado. Beh, si tratta anche di un pezzo italo disco, cioè di quel genere di cui siamo, adesso non voglio fare una cosa patriottica, però insomma... Mano sul cuore! Esatto, di cui siamo i creatori, indissolubilmente e in maniera assolutamente certa, e che gli stessi italiani un po' disprezzano però. Esatto, invece in giro per il mondo è molto apprezzata. C'è gente che orgogliosamente fa della italo disco, in Australia. Order. Esatto, allora usciamo da questo loop nostalgico e anche un po' sovranista e col... E parliamo un po' dei satelliti di San Marco. No, e parliamo dell'impareggiabile Andromalis, esatto. Ovvero il nostro collega in questo senso. Sei aperto. Il collega in questo senso che ci propone nella sua rubrica costante Clatuba Radanicto tutta una serie di fumetti underground molto belli, e lo fa con questo stile un po' post-ghezziano, direi, no? Ghezziano, il Ghezzi di No Altri l'abbiamo definito. Cioè, Andromalis, lui sostiene di essere Dori Ghezzi. Comunque, Dori Ghezzi. Non... Andromalis è fumettista, illustratore, nostro fiancheggiatore impareggiabile, ed ecco a voi Andromalis. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Nel 1995 esce, a cura delle edizioni del Centro Fumetto Andrea Pazienza, Earl for Ice, il detective mutante inventato, scritto e disegnato da Stefano Zattera, uno dei più importanti e talentuosi disegnatori del fumetto underground italiano. Da quell'anno ad oggi Zattera ha scritto una decina di avventure di Earl, passando dalle peggiori fanzine sotterranee a piccole grandi case editrici indipendenti, come La Mette, Nero Cromo, In Your Face Comics, Bart Edizioni. E probabilmente è proprio l'attraversamento la grande caratteristica narrativa e stilistica di Earl. Zattera infatti costruisce le avventure del suo eroe giocando sui grandi cardini del racconto hard-boiled, da Hammett a Elroy, cioè morte, violenza, miseria, barbom, sesso e tristezza, ma facendole girare ad altissima velocità nell'anno 2985, in pianeti radioattivi, città avvelenate e quartieri tossici abitati da allucinanti mutanti, fisici e morali. Lo stesso Earl ha per l'appunto 4 bulbi oculari e la sua eterna fidanzata Millie una bocca in fronte e chissà che altro, che però noi non possiamo vedere. C'è poi l'ambiguo Dr. X, la cui testa è un guscio d'uovo rotto da cui fuoriesce un terzo occhio allucinato. Ma non solo. Anche i mondi dei supereroi, della fantascienza, della pulp fiction in generale si uniscono come ingredienti all'ironico mixer artistico di Stefano. Tutto questo non sarebbe abbastanza rave se la materia narrativa non fosse remixata ulteriormente con la scossa elettrica della cultura alternativa. Le droghe lisergiche anni 60 e le neometanfetamine, tatuaggi, piercing, body art divengono così il perfetto innesto alla mutazione fisica, politica e morale del mondo di Earl, che rimane sempre e comunque un mondo di emarginati, odiati, esclusi. Esattamente come il mondo accademico di tutte le discipline creative ed artistiche è emarginato, odiato ed escluso la letteratura di genere e i suoi pericolosi freaks. Stay mutant. E beh, tra l'altro, mi sembra che l'inglese di Andromalis, questo lo chiedo a Ray, migliori sempre. Tutto migliora di Andromalis. Tutto migliora. Io prima stavo dicendo che lui è un'eccellenza italiana. Assolutamente. Era volontario. Esatto, è un'eccellenza. L'intrusione. Lui amerà moltissimo italiana. Questo suo... sì, mi picchierà proprio. Soprattutto non è un cervello in fuga. No, allora, non è in fuga. Questa è un po' la puntata della supercazzola. Così come ha aperto anche Bimo. Anche io ho una supercazzola da raccontarvi questa settimana. Se vogliamo vederla in maniera così schematica. Beh, insomma, il riferimento è al nuovo lancio del Blue Origin, cioè l'azienda di Jeff Bezos, che in qualche modo è anche la... come dire, l'antagonista della SpaceX, anche se in realtà con tanti gradi di separazione, insomma, sanno piuttosto gli piacerebbe. Tuttavia la Blue Origin si sta specializzando, come tutti sanno, in voli per ricconi turisti spaziali. Nel 22 i lanci erano terminati, si erano interrotti perché New Shepard, cioè la navicella della Blue Origin, aveva dato dei grandi problemi, quindi la sicurezza non era più garantita. Vedi mai che ci perdiamo qualche stramiliardario, qualche stramiliardario nello spazio. E invece pochi giorni fa praticamente i voli sono ripartiti, e quindi questo è il settimo volo della New Shepard, con a bordo 6 stramiliardari, di cui non ci interessa il nome, ma insomma ci interessa che l'attività di turismo spaziale si sia in qualche modo ripresa, e che quindi continui ad essere argomento di discussione anche in questa trasmissione. Ovviamente il razzo e la capsula spaziale hanno raggiunto la stratosfera, si sono fermati lì un po' di... Sì, non è propriamente spazio. No. Sono fermati un po' di minuti, bassa gravità, i turisti spaziali hanno goduto della riduzione della gravità, quindi si saranno fatti un piccolo viaggio nella capsula, e poi sono rientrati ad una modica cifra che non so, ma sarà altissima, e che oggi nessuno di noi si potrebbe permettere. Un giorno ce lo potremmo permettere. Ci stavo pensando proprio. Dici, speriamo. No, ci stavo pensando che in realtà a potersi permettere un viaggio così sarà manovalanza iperspecialistica, iperspecializzata, che probabilmente devorrà il primo stipendio del primo mese, dei primi 6 mesi di attività su qualche pianeta extraterrestre a ripagarsi il viaggio, perché insomma i viaggi costeranno comunque sempre molto. Se non sbaglio è la trama sotterranea dell'ultima stagione di For All Mankind, se non sbaglio. Ma è una cosa di cui si parla molto, il fatto, il parallelismo tra la schiavitù a cui si sottoposero alcune, non tanto poche in realtà, per attraversare l'Atlantico durante l'espansione in America. Esperienze dei negrieri. Questi invece non erano negrieri, questi erano europei che per pagarsi il viaggio si autovendevano come servi per in teoria almeno un periodo limitato di tempo per ripagare le spese del viaggio. Succede anche con molti migranti che vengono dall'Africa, esatto, per esempio. Esatto, non è una pratica solamente o da Sud nuova. America. Però dovremmo aspettare ancora un po' per viaggi più lunghi, insomma, per raggiungere Marte ancora ci vogliono 6 mesi, nonostante i grandi... E poi una volta arrivati... E non si sa come tornare, ma quello, insomma. In realtà, nonostante le grandi novità di cui in questi anni vi abbiamo parlato, quindi riutilizzabilità dei razzi, nuovi propellenti e quant'altro, insomma, comunque il tempo di trasmigrazione è ancora molto lungo. E alcuni scienziati, però non è ancora la prima volta, proprio in questo mese hanno tirato fuori una nuova ricerca sul cosiddetto motore a curvatura. Questo concetto ci riporta sicuramente alla mente tutta la saga Star Trekiana, di cui adesso qualcosa diremo. E in che cosa consiste il motore a curvatura? Semplicemente è un motore che utilizza, come dire, è comunque coerente all'interno di quelle che sono le equazioni della relatività generale einsteiniana, e quindi gioca sullo spazio-tempo, e in qualche modo non si propone la possibilità di raggiungere velocità mostruose, ma quello di comprimere o dilatare il tempo, lo spazio-tempo davanti o dietro a sé. Ad esempio, se noi tra i primissimi progetti appunto di motore a curvatura, se lo cercate ad esempio su Wikipedia, troverete quello star trekkiano, che anche però ha delle basi scientifiche e fisiche comunque credibili, e vi accorgerete che la rappresentazione è quella di questa Enterprise che davanti a sé, mentre viaggia, quindi mentre si muove, ha il tempo appunto anteriore che si restringe, mentre quello posteriore si dilata. Quindi questo cambiamento della struttura, dell'architettura, dello spazio-tempo consente all'astronave di muoversi all'interno di una bolla ad una velocità, secondo i creatori di Roddenberry e tutti coloro che hanno poi proceduto nella creazione di Star Trek, di muoversi appunto a velocità superiori a quella della luce. Questo nuovo motore a curvatura, che in questi giorni solo teoricamente sì, è stato proposto, sì, chiaramente non è stato costruito assolutamente nulla. Sì, anche perché poi lo vedremo, non viola nessuna legge fisica conosciuta. E soprattutto quella del non superamento della velocità della luce, del limite, sì, della velocità della luce. Assolutamente, ma richiede per esempio una massa negativa, che non è, non contravviene nulla, ma che non si sa bene che cosa è. Esatto. È un po' tipo la materia oscura. Peggio, molto peggio. È la supercazzola nella supercazzola. Esatto. E questa però, questa astronave per viaggiare, mi sono un po' bruciato la sorpresa, in realtà rispetto alla prima ha una differenza, che non c'è moto, almeno secondo chi l'ha progettata e chi l'ha ideata, non ci sarebbe moto reale di un cosmo mezzo, ma in realtà solo ed esclusivamente la destrutturazione e la ricostruzione dello spazio-tempo, delle architetture dello spazio-tempo intorno a questa, sì, a questa non c'è astronave. Non c'è un'accelerazione. E questo che cosa la avvicinerebbe più a quella che classicamente invece noi intendiamo come macchina del tempo, no? In realtà, se pensate alle idee di Wells sulla macchina del tempo, noi abbiamo un mezzo statico che non si muove, ma tutto ciò che è intorno adesso invece si trasforma grazie a questo viaggio. E questo sostanzialmente diventerebbe a tutti gli effetti, come ogni viaggio poi in realtà a velocità approssimative a quelle relativistiche, un viaggio nel tempo, però con questa unica differenza che appunto non ci sarebbe una spinta del cosmo mezzo non ci sarebbe un motore. In realtà poi un'altra caratteristica di questa soluzione è il fatto che le velocità che si raggiungerebbero non sono poi così incredibili, però comunque rimane sempre un'ipotesi interessante, perché anche riuscire a muoversi a velocità non incredibili, però senza dover trasportare carburanti, per dire, o senza dover avere dei motori, sarebbe un bel risultato. Beh, allora io termino questa incursione in questo tipo di mondo consigliandovi un libro un po' vecchio, ma molto molto interessante, molto molto bello. Non credo abbia avuto riedizioni di aggiornamento, ma insomma funziona, perché si riferisce soprattutto alla prima e alla seconda stagione di Star Trek, che è La fisica di Star Trek del 1995, di Lawrence Krauss, fisico, divulgatore, che scrisse questo libro proprio per cercare di verificare quelle che erano le possibilità fisiche reali delle invenzioni introdotte dalla serie Star Trek. Ma lo scrisse in Klingon o in banale inglese? No, in banale inglese in realtà. Vabbè. Il Klingon è molto parlato, ma non così tanto. Poco scritto. Eh sì, e in realtà è molto interessante, anche se un po' vecchiotto, perché noi sappiamo che intanto, a differenza di altre saghe, quella di Star Trek si è sempre basata, mettiamolo tra mille virgolette, su una sorta di scientificità data da consulenti che aiutavano i creatori poi ad inventare le macchine. C'è questa battuta bellissima sulla seconda stagione, ad esempio, di cui forse ho già parlato, che nella presentazione della seconda stagione degli anni 80, quindi di The Next Generation, i giornalisti si rivolsero a Giro De Berry proprio, se non sbaglio, a lui o ad altri creatori. Erano stata appena introdotto come dire, questa tecnologia degli ammortizzatori inerziali, e quindi i giornalisti chiesero: ma esattamente a questo creatore, a questo sceneggiatore, esattamente come funzionano i motori inerziali? E lui disse: perfetti, grazie. Geniale. E vi consiglio di leggerlo perché insomma è un po' datato, e poi sicuramente come dire, alcune cose negli anni sono cambiate, anche alcune prospettive. Però per esempio c'è proprio il ragionamento sul motore curvatura, fatto molto molto molto bene, anodino come ragionamento, e quindi molto molto interessante. Da lì potete partire poi. Ma il motore a spore quindi non c'è? Allora no, il motore a spore non c'è. Tra l'altro in Star Trek si parla di velocità warp, e non c'è il motore a spore, non ci sono i tardigrada che arriveranno molto più tardi. Sì, come dicevo, giganti poi. Sì, come dicevo, il riferimento è quella alla prima e alla seconda stagione, quindi la versione classica e The Next Generation. Però insomma, in questo viaggio che ci ha portato al turismo spaziale, che ci fa, come dire, ci fa decollare solo per pochi chilometri, a quelle che saranno le possibilità di un vero e proprio motore di curvatura, che invece, anche se molto limitato, ci sposterà molto più in là. Ecco, in mezzo c'è la chiave di lettura Star Trekkiana, in qualche modo, che ci alleggerisce anche questo tipo di viaggio mentale e ce lo rende molto molto più pop, così come pop il prossimo brano. Il brano era molto lungo, molto, molto bello, molto lungo. 9 minuti molto sarebbe pop, durato. Anche invece molto, molto ne avete pop. Ascoltati 4 minuti e 12. Sì, poi insomma, diciamo, noi abbiamo la tradizione di troncare i pezzi. E specialmente quelli pop come quelli, questo. Quelli pop lunghi 9 minuti. Ray, di che cosa si trattava? Si trattava di Space Jungle dall'album Vibrations of the Day, ma è l'autore che è Marshall Allen con i Construct. Sono un gruppo, allora, i Construct sono un gruppo di jazz turco di cui non proverò neanche a pronunciare i nomi. Marshall Allen è di fatto il capo, il leader della Sun Ra Orchestra. L'altro giorno ha compiuto 100 anni. Voi sapete forse che io sono abbastanza appassionato di afrofuturismo in quanto utopia intergalattica, ma anche, diciamo, cosmo-anticapitalista. Di liberazione di un popolo, per la fine, perché nasce da questa liberazione di un popolo. Marshall Allen è stato un Buffalo Soldier, no? Della Seconda Guerra Mondiale, musicista, polistrumentista, appunto, ha smesso di andare in tour a 97 anni, beato lui, ancora Dio suona. Dio lo benedica. Questo brano lui l'ha composto e suonato quando ne aveva solamente 87. E mi ricollego a una cosa detto, cioè Bimo oggi mi ha letto, sì Bimo, scusa, Cobol, mi ha letto nel pensiero perché avrei chiesto di parlare del turismo spaziale. E, circa 2 settimane fa il signor Edward White, di 90 anni, che 60 anni fa sarebbe dovuto essere il primo astronauta afroamericano, quindi allenato e preparato ad andare nello spazio dalla NASA, ha finalmente volato per la bellezza di 9 minuti e 53. Non lo fu in quanto afroamericano, molto probabilmente. E una storia lunga, posterò un articolo sulla chat di Boca Chica Cosmodrome, e che pronuncio ovviamente male, e ha volato grazie a Blue Origin per ben 9 minuti e 53 secondi, e gli afroamericani di tutto il mondo stanno ringraziando Blue Origin. In realtà poi la NASA ha fatto volare degli afroamericani molto dopo. Molto dopo, lui doveva volare 60 anni fa. Ebbene, il capitalismo multipolare in realtà arriva molto molto molto più tardi. Se ve lo state chiedendo, siete in ascolto della diretta radiofonica di Boca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione che parla di espansione del capitalismo nello spazio, e lo fa dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma. Quindi parliamo di trasformazioni capitalistiche, e anche in Europa, Bimo, se non sbaglio, c'è qualcosa di cui parlavamo del genere. Prima, nel senso che la conseguenza o la lezione che possiamo trarre da quello che dicevamo prima è che la fase dello spazio socialdemocratico europeo probabilmente si avvicina alla fine e sostituita da, guarda caso, una fase di spazio propriamente capitalista. Tra l'altro, quello che dicevo prima, il nuovo corso che per il momento riguarda un ambito molto ristretto, in realtà, almeno per le parole del capo dell'ESA, verrà poi esteso anche, per esempio, ai lanciatori. Cioè, da una parte l'ESA si impegna a comprare un certo numero di lanci dall'Ariane Space, quindi l'Ariane 6 e il Vega C, però dall'altra pensa che il futuro sarà di chi se lo prenderà sostanzialmente, quindi saranno aperte delle gare per fornire servizi di lancio anche, e quindi i tempi del monopolio di Ariane Space stanno per finire, almeno sembrerebbe. Boca Chica Cosmodrome è un programma sorprendente che parla di espansione del capitalismo dello spazio e anche le sue rubrichine a cui è molto molto affezionato. Quindi bando alle ciance e cuore matto. Nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. Sono sorpreso, commosso, e mi sento come il signore che a 90 anni è andato nello spazio. E sono senza sottofondo. Adesso sono con sottofondo, ancora più emozionato. che dire, grazie Bimo. Ma questa, in realtà questo è l'autore, è Cobol. Io con invidia profonda. Allora vi ringrazio tutti. L'erudito qui, ecco. Andrei il dolce oggi dalla sala da tè del Forte lo offrirà Ray Max con... Sono veramente commosso ed emozionato. Allora, ma lo show deve andare avanti. The show must go on, esatto. Allora, partiamo dalla domanda. Quindi devo anche un po' improvvisare, visto che avrei voluto parlare di fare domande sul turismo spaziale. Però, per fortuna, riceviamo sulla chat di Telegram, che si chiama Boca Chica Cosmodrome, Cosmodrome per i più o meno russofoni, riceviamo molte, molte segnalazioni e poi ormai veniamo riconosciuti per strada dalle nostre voci e ci pongono domande. Quindi Lidia da Messina dice sono sempre stata incuriosita dalla questione del cibo nello spazio, cioè mi ricordo di aver visto di sé 2001 gli astronauti con quelle loro pappette colorate. Insomma, in una puntata precedente avete accennato a coltivazioni e persino allevamenti di animali nello spazio. Ma insomma, come si mangerà nello spazio? Avete informazioni o articoli da condividere? Cioè, penso che sia un argomento relativo alla terraformazione, no? Al come... Ci sono sia ipotesi che, diciamo, ipotesi scientifiche che ipotesi letterarie, in realtà. Per alcune ipotesi nello spazio, per esempio per Expanse, si mangeranno delle proteine che hanno una texture, una consistenza simile alla carne, per esempio, ma che non lo sono, e che saranno sostanzialmente quello, e quindi tutto ciò che sarà vera carne, veri vegetali saranno qualcosa riservato all'elite. Questo è Expanse, ovviamente. Vale quello che vale. Per The Martian, patate. Se ben ricordate. Sì, infatti, The Martian, patate, e For All Mankind avevano queste pianticelle che sembravano molto poco... E non diciamo The Martian come l'aveva, sì, come l'aveva concimata. Però diciamo sarebbe anche interessante andare a vedere se ci sono degli studi o delle quello che sì. Si... No, sì, sì, sì, sicuramente. Tra l'altro, in questo campo sono stati i sovietici dei precursori, perché loro sono stati i primi a sperimentare lunghe permanenze nello spazio. Infatti. E quindi avevano bisogno di portarsi su molto cibo, molto molto leggero, quindi liofilizzato, le pappette di cui per la vita che veniva. Patate. Sì, probabile anche patate. Loro purtroppo mangiano anche il caviale, forse anche il caviale, anche e lo reidratavano con dell'acqua che probabilmente, con della vodka, con dell'acqua che probabilmente era la loro urina poi rifiltrata, perché insomma, diciamo, nello spazio non si getta nulla. E quindi sì, il processo in realtà è un processo da qualche rigenerativo, sicuramente virtuoso. Nello spazio, non si butta nulla, tutto ciò che è riciclabile si ricicla, e quindi molto del cibo arriverà da processi di riciclaggio. In realtà su questo esiste proprio l'ingegneria, cioè un'ingegneria apposita, biotecnologica, che lavora da anni sulla creazione di materiali in loco, cioè in realtà è meglio portarsi nello spazio dei semi, poi magari raccogliere della regolite marziana e farne del terriccio e far crescere le piante, piuttosto che portarsi un baobab già dalla terra per mangiarsi i suoi frutti. Anche perché pesa un sacco. Appunto, baobab, appunto. Esatto. Quindi quello di in realtà sviluppare in loco sia le costruzioni, per esempio le costruzioni marziane, le cupole marziane costruite con la regolite marziana, con le stampanti, le enormi stampanti 3D, che è quello appunto di creare poi delle serre attraverso le cupole geodetiche in cui coltivare il cibo, la partita si gioca molto sul fatto di poter portare solo materie prime che poi vengono sviluppate e saranno fatte sviluppare e crescere, germogliare in questo caso nello spazio. Molto interessante, Cobol, se hai qualche link o libro da segnalare magari postalo sulla chat. C'è tempo per un'altra domanda? Ma certo. Da Ernesto di Caserta. Ma sì. Ernesto da Caserta, praticamente è preoccupato, dice intorno a noi sono conflitti in corso, come sappiamo, e progetti e minacce di guerre satellitari, di guerre nello spazio di cui avete parlato. Ancora prima nucleari, poi nucleari, poi vabbè, nucleare nello spazio. Sì. E quindi lui diceva, le ha molto interessato quando avete parlato in trasmissione della proposta di una specie di ONU spaziale. Dice, con tutti i difetti e i limiti, l'ONU, Unione Europea, esperienze simili negli ultimi decenni sono state una specie di miracolo della storia, no? Ci hanno portato comunque a un periodo di pace relativa, comunque duratura. Insomma, che cosa possiamo fare noi come individui per promuovere la costruzione di esperienze simili, per promuovere la costruzione di trattati o di organizzazioni che vadano che prevedano, no, un'organizzazione migliore nello spazio? Esistono già organizzazioni e gruppi che lavorano in questo senso? Sì, l'ONU. Sì, beh, qui diciamo si apre la solita diatriba tra riformatori e rivoluzionari, cioè questo sistema è riformabile, quindi può poi alla fine, dopo aver superato le proprie contraddizioni, generare una giurisprudenza e soluzioni etiche, o il sistema va completamente ribaltato perché queste condizioni si possano avverare. Quindi quello che io direi, che io per mia protezione sono più per la seconda opzione, perché non credo che in questo stato sia riformabile, comunque non sono mai stato un migliorista da questo punto di vista, e quindi io direi bisogna fare la rivoluzione. Cioè, ma sulla Terra o nello spazio? No, sulla Terra. Questa è una cosa molto interessante, perché spesso io credo anche noi tutti e tre ci troviamo entrambi tre sì. Ci troviamo a dover rispondere a persone che ci dicono: vabbè, ma vi occupate di spazio? No, questa cosa abbiamo già detto, vi occupate di spazio, ma qui in realtà sul pianeta Terra ci sono un sacco di problemi per occuparsi dello spazio. Ma in realtà le soluzioni che noi possiamo suggestive, migliorative che possiamo immaginare per lo spazio si devono attuare prima sul pianeta Terra. Quindi se il nostro è un pensiero rivolto al capitalismo spaziale, allo slancio del capitalismo spaziale, per migliorare il capitalismo spaziale comunque resta sempre il problema di fare la rivoluzione sul pianeta Terra. Quindi non è che ci allontaniamo, noi parliamo semplicemente di una new economy che è emergente ormai da 50 anni, ma è una new economy che insieme all'intelligenza artificiale muterà totalmente le prospettive biologiche e umane in generale, e questo richiede del tempo, ma in realtà il processo di scardinamento di quelle che sono le storture di questo sistema rimangono più o meno sempre quelle, magari sì, non saranno solo sul territorio terrestre, ma lo dicevamo, cioè c'è una corrispondenza, no? Tra quello che succede sulla Terra e quello che succede nello spazio, no? Ne parlavamo probabilmente nella prima stagione. Dovresti ripassarla, Bimo. Diamo un adesivo se la ripassi. Do io un adesivo a voi se la ripassate voi. Ok, deal. E c'è tutto uno scambio di adesivi. Comunque, sì. Questo, quello che dice Cobol è questo: pensare che i due ambiti siano separati probabilmente è un errore, nel senso che i due ambiti sono assolutamente collegati allo Stato, ovviamente. Forse tra qualche secolo, se tutto andrà in un certo modo, cominceranno a divergere, ma in questo momento non è così. Quindi una situazione di pace nello spazio presuppone una situazione che lo permetta sulla Terra. Posso dire, come in cielo così in terra. Esatto, o come in terra così in cielo. Infatti credo che la domanda infatti credo che la domanda dell'ascoltatore si riferisse a questo, cioè se a comprendere che quello che succede nello spazio, che sta già sullo spazio, non è solamente fantascienza, capite? Prefigurazione di eventi futuri, ma sono cose che sono già in corso. Assolutamente. Quindi iniziamo a prendercene come protestiamo per qualsiasi problema sulla Terra, o comunque già iniziamo ad agire e diamoci da fare pure per quello che succede nello Dobbiamo spazio. Iniziare ad annoverare nell'agenda politica controculturale antagonista anche temi verticali come quello dello spazio. Meglio, grazie Popol. Va bene. Allora io direi terzo e ultimo brano e poi andiamo coi saluti e in chiusura. It's time to be. blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E come nella migliore delle tradizioni, sfumiamo anche questa volta per finire in tempo, entro l'ora, anche se non è importantissimo. Bene, intanto allora avete ascoltato Boca Chica Cosmodrome, la nona puntata in diretta dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino su Radio Forte, che è un'invenzione tra le tante di questo magnifico centro sociale. E il pezzo che avete appena ascoltato era si intitolava Tank col punto esclamativo della grandissima Yoko Kanno ed era la sigla di Cowboy Bebop. Ah, punto esclamativo. Non saprei neanche di cosa si tratta. Comunque Cowboy è un grandissimo un grandissimo cartone animato giapponese che tu devi vedere per forza. Uno dei pochi che ha visto pure Remax. Lo vedrò, allora lo vedrò. Da cui è stato tratto un immondo una immonda versione con attori su Netflix, una cosa inguardabile che io vi invito a non guardare. Non dovevi neanche citarlo, Bimo, guarda. No, è perché tremendo. Magari qualcuno potrebbe confondersi, tremendo, capito? Bisogna essere chiari in questi casi. Va bene, allora se pensate che sentirete la nostra mancanza, sappiate che esiste un Telegram su cui potete entrare in diretto contatto con noi, con Remax per primo, che è la nostra prima interfaccia pubblica sulla rete, ma anche con Cobol e con Bimo. Risponderemo alle vostre domande, ma soprattutto mettiamo approfondimenti. Questa sera vi abbiamo svelato tutti i brani musicali, ma spesso in realtà li lasciamo un po' opachi proprio perché ci scordiamo. Esatto, proprio perché ci dimentichiamo e poi un po' perché questo crea tensione sul nostro Telegram e lì possiamo rispondere alle domande e mettere delle piccole sorpresine, ma comunque lo facciamo sempre, qualche cosa di interessante e sfizioso riusciamo sempre a pubblicarlo. Allora vi ringraziamo, vi mancheremo, su Telegram troverete però anche e ci mancherebbe, troverete il podcast con questa puntata e ve lo ripeto sul sito forteprenestino.net nella slot Radio Forte, nella slot Boca Chica Cosmodrome trovate tutte le puntate, tra cui tra pochi giorni anche questa. Allora io vi do con Remax e Bimo l'appuntamento a giovedì prossimo. Ciao Marziani. Ciao Marziani. E vi lasciamo con la nostra sigla di chiusura. Baci.